Sura della devozione completa, capitolo 112 del Sublime Corano, rivelata alla Mecca, consta di 4 ayat ed è scesa dopo la Sura 114, An-Nas. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso e il clementissimo, di Allah è uno, unico e unipersonale. Allah è As-Samad, unico titolare della inseità. Non generò, non è padre, né fu generato, non è figlio. Nessuno è coeguale a lui, poiché egli non condivide con nessuno la sua qualità divina.